il falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Oggi chiudiamo un cerchio perché paghiamo un pegno che io avevo con me stesso, con voi e con la storia. Perché in tre puntate diverse vi ho parlato di un album che uscì nel 1967, The Velvet Underground e Nico, uno degli album più importanti e influenti della storia del rock, famoso anche per la straordinaria copertina con la banana gialla sbucciabile, quella disegnata da Andy Warhol. Un album straordinario, immortale, che non vendette molto, però come disse Brian Eno, tutti quelli che comprarono quell'album misero in piedi una band. Noi che abbiamo parlato spesso di musica siamo incappati diverse volte in questo album, perché ne abbiamo parlato raccontando l'epopea di Andy Warhol, ne abbiamo parlato quando abbiamo raccontato Nico, la cantante, ovviamente ne abbiamo parlato nella puntata su Lou Reed, e oggi dedichiamo la nostra puntata all'altro grande autore di questo disco immortale, senza il quale i Velvet Underground non sarebbero mai esistiti, e che dall'uscita di questo album fino ad oggi ha costruito una carriera unica e irripetibile. Rappresenta uno dei cardini della musica moderna. Il protagonista di oggi è John Cale. Una vita non semplice quella di John Cale, segnata fin dai primi anni da avvenimenti molto drammatici, le molestie sessuali che ha dovuto subire da piccolino da parte di due uomini, un prete anglicano e un suo insegnante di musica, è un fatto che ovviamente lui non potrà mai dimenticare. E poi una vita segnata dalla malattia, perché è un bambino gracile, soffre di bronchiti molto intense per le quali i medici fin da ragazzino gli prescrivono degli oppiacei, e questo è già uno spartiacque, perché da questo all'assunzione di droghe anche pesanti il passo è breve, e il tutto verrà condito da alcolismo e da tutti gli eccessi di vario genere tipici delle rockstar, soprattutto di quegli anni. Ma tutto questo non ha impedito a John Cale di realizzare qualcosa di veramente grandioso nel campo musicale, che rimane e rimarrà sempre. Peraltro oggi lui è completamente disintossicato, anzi è un attivista molto impegnato nella lotta contro la diffusione dell'eroina nel suo Galles, il paese d'origine, tanto che nel 2009 ha realizzato un docufilm che si intitola Heroin Wales and Me, dove denuncia la situazione drammatica nella quale si trova il suo paese. Wales has a drugs problem. Il Galles ha un grosso problema di droga, ed è un problema che io conosco bene. Oggi l'unica droga che prendo è questo tè, ma non sempre è stato così. Quando stavo a New York e suonavo nella band che ho fondato insieme a Lou Reed, i Velvet Underground, la droga era dappertutto ed è diventata subito parte dei miei esperimenti artistici, della mia musica. Uno dei nostri più grandi successi era una canzone che si intitola Heroin. Negli anni 70 facevo uso della maggior parte delle droghe reperibili negli Stati Uniti, ma poi una mattina mi sono svegliato e ho preso in braccio mia figlia, che era appena nata, e ho pensato che mi sarei perso la maggior parte della sua vita se non risolvevo subito i miei problemi. John Cale è originario del Galles, nasce il 9 marzo del 42 a Garnant, che è un villaggio minerario in un bellissimo posto, è la valle del fiume Amman. La madre è una maestra attaccata alle tradizioni locali, il padre, che lavora in una miniera di carbone, è inglese. E qui c'è già una chiave, ascoltate cosa racconta John. Sapete, il Galles è una società piuttosto chiusa. Alcuni parlano solo gallese, altri parlano solo inglese, alcuni sono poliglotti e si creano delle situazioni spiacevoli. Mio padre era inglese, ma la mia nonna materna aveva bandito l'inglese dalla nostra casa, e quindi io, fino a 7 anni, quando sono andato a scuola, non potevo comunicare con mio padre, e ne ho risentito moltissimo. E beh, insomma, avere un padre che parla un'altra lingua che a te viene negata non è un ottimo inizio. Sembra assurdo, ma bisogna tener conto della situazione che vive il Galles rispetto al resto della Gran Bretagna, la sua fortissima identità nazionale che porta i suoi abitanti a difendere la propria autonomia in ogni campo, soprattutto quello linguistico e delle tradizioni. Questo accade anche in Irlanda e in Scozia. Insomma, gli inglesi non sono visti molto bene da quelle parti. Ma anche se non si parlano tra loro, il padre di John ha una grande intuizione quando, sperando per il figlio un futuro migliore del suo, lontano dalla miniera, alimenta la sua naturale predisposizione per la musica. Così si scopre che il ragazzo ha un vero talento per uno strumento non molto usuale, la viola, quello che lui definirà anni più avanti the saddest of all instruments, cioè il più triste di tutti gli strumenti. A costo di grandi sacrifici, contro il parere della madre, il padre lo manda a studiare a Londra, al Goldsmith College, una università musicale dove John dimostra un'attitudine sorprendente, un polistrumentista, compone, canta, è un portento, è molto vicino alla sensibilità artistica di grandi compositori di avanguardia, perché la musica tradizionale, tonale, diciamo così, comincia ad andargli stretta, e quindi arrivano Stockhausen, Lamonte Young, John Cage, e alcuni anni dopo proprio lui racconta questo. Mia madre avrebbe voluto che io facessi il medico o l'avvocato ed era convinta che non avrei mai guadagnato dei soldi come compositore. È stata una grande lotta. Per il resto della mia vita ho combattuto per provare che mia madre aveva torto. E forse anche da questi conflitti parte la spinta che porta John a lasciare il Galles per trasferirsi a New York, dove riesce a entrare in contatto proprio con quei musicisti ai quali si sente più vicino, le avanguardie musicali newyorkesi, e quell'uomo dal quale lui si differenzia solo per una consonante, John Cage, che era il grandissimo sperimentatore statunitense che rappresenta una delle influenze più importanti nello sviluppo della musica contemporanea e nella fattispecie della straordinaria carriera di John Cale con la L. Il falco e il gabbiano. John Cale lascia il Galles e arriva a New York nel 63, ha solo 21 anni. Il suo intento è quello di proseguire negli studi, di specializzarsi in composizione, ma il destino ha in serbo per lui qualcosa di diverso, perché avendolo sentito suonare John Cage in persona, lo invita a partecipare come performer di alcuni brani del compositore francese d'avanguardia Erik Satie. Il 9 settembre del 63 Cale prende parte insieme a molti altri musicisti a una rappresentazione dell'opera Vexation di Satie, che è una maratona della durata di 18 ore e 40 minuti. L'evento è talmente particolare e straordinario che John viene invitato a un programma televisivo di grandissimo successo, I've Got a Secret, ho un segreto. Si tratta di un programma molto divertente nel quale un gruppo di personaggi famosi sono chiamati a gareggiare per cercare di scoprire quale sia il segreto che accomuna due ospiti presenti in studio. È un programma che appassiona l'America, il format è particolare, ci sono segreti da scoprire, strani. Così la sera del 16 settembre del 63 John Cale si trova di fronte ai concorrenti del programma insieme a un'altra persona che si chiama Carl Schenzer e che divide con lui il segreto da scoprire. Will you come in? Entrate, prego! Per ragioni che diverranno ovvie, il signore alla mia sinistra sarà chiamato Mr. X. Vi dirò solo che viene dal Galles e che è un musicista. Da quest'altra parte c'è Carl Schenzer di New York. Ora, questi due signori hanno un segreto che li collega. Mr. X, mi bisbiglia all'orecchio il suo segreto. Intanto gli ascoltatori a casa potranno leggerlo scritto sullo schermo. E ora, Mr. Shenzhen, mi bisbigli il suo segreto. Anche il suo verrà scritto in sovrimpressione per farlo leggere a casa. Bene, il segreto si riferisce a qualcosa che hanno fatto i nostri due ospiti. E possiamo iniziare il gioco. Beh, il programma è divertente di per sé, ma in questo caso il segreto è veramente strano, perché quello di John Cale, cioè Mr. X, è il fatto di aver suonato in un concerto per 18 ore ininterrottamente, mentre quello del signor Carl Schenzer è quello di essere stato l'unico spettatore del concerto ad avere resistito dall'inizio alla fine per tutte le 18 ore consecutive. Insomma, uno spettatore molto paziente, coraggioso e curioso. E questa prima esperienza come concertista, anche la trasmissione televisiva, apre a John Cale le porte di un mondo nuovo, diventa parte del progetto musicale di un altro grandissimo compositore delle avanguardie statunitensi, Lamont Young. Il progetto, chiamato The Theater of Eternal Music, si ispira ai lunghi suoni di bordone della musica indiana, un termine molto tecnico che si riferisce all'utilizzo di una nota o di un accordo suonati in modo continuo per l'intera composizione, tipico del sitar, che è lo strumento indiano, ma anche le cornamuse scozzesi usano una nota fissa continua che fa da sottofondo alla composizione. Bene, John Cale entra giovanissimo in questa realtà di estrema avanguardia, suona la viola e anche un violoncello modificato, qui che conosce un batterista molto forte, si chiama Angus MacLise, del quale diventa subito amico. Per Theater of Eternal Music, Cale realizza diversi brani sperimentali che poi verranno pubblicati nel 2001. Sempre suonando per il progetto di Lamont Young, che avviene un altro importante incontro, perché John Cale conosce il mitico chitarrista Sterling Morrison. Però l'incontro che più di tutti segna la vita e la carriera di John Cale è senza dubbio quello con uno dei miei musicisti di riferimento, e anche i più attenti di voi avranno capito di chi sto per parlare. John Cale che incontra Lou Reed, e sono intanto due ragazzi, hanno poco più di 20 anni, sono nati a distanza di una settimana, poi sono entrambi attirati dalla sperimentazione musicale, arrivano da due realtà praticamente opposte. John, che ha una matrice classica, che suona la viola, il violoncello, ha studiato, ha esperienze nelle avanguardie più estreme. Lou Reed invece ha suonato in alcune band, voleva fare lo scrittore, ha un approccio letterario alla musica, e la volta che l'ho intervistato mi avrebbe detto: io arrivo dall'università, quella chiamata Andy Warhol. I due quando si incontrano sono ancora alle prime armi. Lou Reed sta facendo l'autore di testi per canzoni destinate a piccole band di un'etichetta commerciale, la Pickwick Records, però la loro affinità è totale. John Cale a questo proposito dice così in un'intervista: What made you leave Satie for rock and roll? Che cosa ti ha convinto a lasciare Satie per il rock and roll? Well, I'd run into Lou Reed. Beh, mi sono imbattuto in Lou Reed. Io all'epoca avevo voglia di correre dei rischi e Lou mi ha introdotto nel mondo del rischio. Ti ricordi la prima volta che hai incontrato Lou Reed? Sì, certo. Si stava facendo il caffè nella cucina della casa discografica. Con Lou Reed, John Cale scopre il rock and roll e trova il suo partner artistico ideale. Nasce un sodalizio storico dove ognuno dei due allarga i suoi orizzonti musicali. John, dopo l'esperienza con Lamont Young, si sente in una specie di vicolo cieco e vuole uscirne, vuole sperimentare nuove forme espressive, vuole, come dice nell'intervista, correre dei rischi. Lou Reed, grazie a John, scopre la musica classica, la sperimentazione, esce subito dalla struttura della canzone commerciale che andava in quegli anni in un'America che aveva appena scoperto il rock and roll e tutto al più i Beatles. Insomma, l'avanguardia irrompe nel rock in una maniera del tutto inusuale. Lo stesso uso della viola, che è uno strumento molto lontano dal mondo del rock, nessuno userà più la viola, caratterizza le prime produzioni artistiche dei due, le rende uniche e rivoluzionarie. Loro sono pronti a fare il grande salto, e questo è un momento che rappresenta una delle colonne della storia della musica moderna. È un momento chiave perché Lou Reed, John Cale, Sterling Morrison e Angus MacLise, batterista di cui abbiamo parlato prima, nascono insomma i mitici Velvet Underground, che devono il loro nome all'omonimo libro del giornalista Michael Lake, che descrive il sottobosco sessuale underground americano dei primi anni 60. Quindi insomma partiamo alla grande. Poi avviene una cosa strana a pensarci oggi. Il batterista Angus McLise lascia la band non appena scopre che i suoi amici intendono farsi pagare per i concerti, perché lui pensa che l'arte non possa essere mercificata e quindi abbandona. Cioè, immaginate i musicisti di oggi alle prese con un ragionamento del genere. Comunque viene sostituito da una ragazza che si chiama Maureen Tucker, che si rivela essere una grandissima musicista, una delle rare batteriste donne. Poi suona in un modo particolare, perché non suona la cassa con il piede, suona, ha una cassa sistemata al posto del timpano che suona con la mano destra, quindi un'altra rivoluzione notevole. Insomma, i batteristi capiranno cosa sto dicendo più di altri. Dei Velvet abbiamo parlato ampiamente, abbiamo raccontato di Andy Warhol che li assume come band residente della sua mitica Factory, produce i loro album. Poi arriva Nico, la straordinaria cantante magnetica e enigmatica, nasce la collaborazione che dà luogo al loro primo album, The Velvet Underground e Nico, nel 67, lo spartiacque della storia del rock. Poi l'anno dopo comincia a abbandonare Nico, esce un altro capolavoro che è White Light, White Heat, e lui, John Cale, sta suonando la viola, ma suona anche il pianoforte, la celesta, canta, suona il basso, recita. E nel 68 però anche John Cale abbandona i Velvet Underground, inizia una sua carriera solista e anche una carriera di produttore. Tra l'altro tornerà a produrre proprio Nico. L'uscita dei Velvet è causata da una serie di motivi dei quali vi parlerò tra poco. I Falco e il Gabbiano. Well, Venus in First was the first one that I knew that we had a style of our own. Venus in First fu la prima canzone con la quale realizzai che avevamo un nostro stile ben definito. Quello che proprio non volevamo fare era imitare qualcun altro. A quel tempo studiavano tutti l'assolo di chitarra di Green Onions e noi volevamo fermare questo. Volevamo fare le cose alla nostra maniera, far venire fuori veramente che cosa stavamo facendo. Pensate, vi sto raccontando di un mondo nel quale un musicista dice: non volevamo imitare nessuno, volevamo fare le cose alla nostra maniera. Sembrerebbe lapalissiano, ma nel mondo musicale di oggi questa è una frase ancora oggi, anzi vieppiù oggi, rivoluzionaria, una dichiarazione di indipendenza. Stiamo raccontando di uno dei musicisti più indipendenti, innovatori, nemici del sistema musicale, della discografia, che ci siano stati negli ultimi 50 anni, perché stiamo parlando di John Cale. Vi stiamo raccontando di un uomo che parte dal Galles, forte dei suoi studi musicali, musica classica, e incontra l'uomo barricadero e disperato quanto lui, ma con una cultura musicale completamente diversa, che Lou Reed. Insieme fondano i Velvet Underground. Siamo arrivati al 1968 e i Velvet sono una delle realtà più interessanti del panorama musicale mondiale. È la collaborazione tra Lou Reed, John Cale, Andy Warhol e Nico ha creato qualcosa di irripetibile e straordinario. Poi, in poco tempo, si verificano una serie di fatti che portano la formazione originale a modificarsi notevolmente in peggio. Intanto Nico abbandona il gruppo subito dopo il primo album, mentre dopo il secondo se ne va proprio John Cale, e proprio per un disaccordo con Lou Reed. E anni dopo lui dichiarerà questo. It probably started when Lou... Probabilmente tutto ebbe inizio quando Lou disse ad Andy che non lo voleva più intorno. Da quel momento le cose andarono peggiorando sempre più, perché non c'era più qualcuno che cospirava con noi. Non c'era più Andy che ci ricordava tutte le pazze idee che avevamo e che ci spingeva a portarle avanti. E insomma, alla fine, senza Andy, ci trasformammo in una normalissima band. E questo è molto triste e doloroso. Penso che tutte le nostre idee svanirono nell'aria. Eh sì, la triade John Cale, Lou Reed e Andy Warhol dimostra che a volte uno più uno più uno non fa tre, ma fa molto di più. La parte rivoluzionaria dei Velvet Underground viene meno con l'allontanamento di Andy Warhol e Lou Reed comincia a essere, e sempre naturalmente dall'alto della sua poetica, ma comincia a essere interessato anche a vendere dischi, a diventare, non dico pop, ma almeno un po' più fruibile, e questo va di traverso a John Cale e tutto cambia. Anche la batterista Maureen Tucker dichiarerà proprio questo. Well, when John left, it was really sad. I mean... Quando John se ne andò, fu veramente triste, stavo proprio male. Diventò tutto più normale, che va bene, facevamo belle canzoni, buona musica, ma non fu mai più lo stesso. Buone canzoni, ma quel fattore follia era sparito. Il fattore follia era dato da loro due insieme, ma John era molto creativo. Fammi fare questo, fammi provare quest'altro. Anche lui lo era, ma John lo era di più. Secondo me John aveva più a che fare con il risultato finale delle canzoni. Certo, era lui che le scriveva, ma il prodotto finale era più una cosa di John e la gente se ne accorgeva. E a riprova di questo, quando John andò via, facevamo le stesse canzoni, ma non erano più la stessa cosa. Erano buone, ma non erano più lo stesso. Eh sì, viene meno il fattore follia, come lo chiama Maureen Tucker, e quindi le cose cominciano a cambiare, però... Era evidente che i Velvet Underground, insomma, non erano una band destinata a durare 40 anni come i Rolling Stones o come i Pooh. Era un momento, un lampo destinato per sua stessa natura a concludersi. Poi ci saranno anche delle reunion, ma questo può accadere a decenni di distanza. Quindi la carriera post-Velvet di John Cale diventa straordinaria, ma sicuramente contro alle regole. Si dipana su due filoni differenti. Intanto fa il produttore, collaborerà con artisti di altissimo livello, e poi però fa anche il cantante solista in maniera sorprendente, perché ha delle potenzialità notevoli sia come autore che come arrangiatore, come strumentista, ma anche come vocalist. E lui inizia una collaborazione molto proficua con Nicola, ex cantante dei Velvet Underground, e realizzano insieme tre album, The Marble Index, Desert Shore e The End, tre capolavori. E poi produce il primo fragoroso album di esordio degli Stooges, il gruppo di Iggy Pop, e anche lì, invece, cimentandosi con come dire, il rock disperato e dissennato degli Stooges, fa un grandissimo lavoro. E poi collabora invece con Nick Drake, suona la viola. Nick Drake è tutt'altra cosa rispetto agli Stooges, quindi siamo invece in un universo più malato e delicato. E poi nel 70 dà vita al suo primo lavoro come cantante solista. L'album è folk pop rock che si chiama Vintage Violence. E poi altri due album sperimentali, uno con il musicista classico Terry Riley che si intitola Church of Anthrax, e poi un'esplorazione strumentale che si chiama The Academy in Peril, bellissimo titolo, L'Accademia in Pericolo. Poi arriva il suo vero capolavoro. Siamo nel 1973, l'album è Paris 99, Parigi 1919, una raccolta di meravigliose canzoni dalle liriche arcane e complesse. Dopo questo album, Cale si trasferisce a Londra, città molto congeniale alla sua artisticità, e lui cerca nuovi stimoli, entra in contatto con un gruppo britannico che ha detto la sua, i Roxy Music, in particolare con il chitarrista Phil Manzanera e con il grande Brian Eno, cioè i due, diciamo, più sperimentatori della band. Poi c'era anche Andy McKay, soprattutto Brian Ferry, però Manzanera e Eno erano la parte rivoluzionaria dei Roxy Music, e Cale con Eno inizia una collaborazione destinata a durare nel tempo. È una fase completamente nuova della carriera di John Cale, è influenzato da questi musicisti che sono così diversi da quelli statunitensi, e questo si avverte nella sua successiva produzione, che è un trittico di album che contengono la sintesi massima della sua arte: Fear, Slow Dazzle e Helen of Troy. Fear in particolare è una ballata pianistica che sfocia in un delirio, rumori, urla convulse, psicotiche, paranoia, senso di claustrofobia, componenti vitali della sua stessa esperienza che lo portano a dire: la paura è la migliore amica dell'uomo. Tra l'altro, in Helen of Troy è presente una canzone, Living Up to You, dove Cale cita l'omicidio di Sharon Tate, e la canzone verrà esclusa nelle ristampe dell'album proprio perché considerata di cattivo gusto. E in quello stesso anno, nel 75, John Cale produce un altro album mitico, l'album di esordio di Patti Smith, Horses, un disco che fa epoca per la sua passionalità, per la poetica, la grandezza di Patti Smith. È uno degli album da considerare padri del punk, e la doppia anima di John Cale viene fuori prepotente in questi anni, grande produttore di cantanti che avranno anche un enorme successo e performer sempre più estremo, anche a causa, per sua stessa ammissione, dell'uso smodato di droghe, in particolar modo di cocaina. Le sue esibizioni dal vivo sono fragorose, eccessive. Lui inizia a indossare sul palco una maschera da hockey su ghiaccio. Durante un concerto nel 77 a Croydon decapita un pollo vivo con una mannaia lì sul palco. La performance ovviamente era destinata, insomma, a essere notata. I said, okay, well, think about this one. Mi sono detto: proviamo con questo. Presi la testa della gallina e la tirai sul pavimento del palco. Poi mi resi conto che se ne stavano tutti andando via, che spingevano la testa del pollo verso il retro del palco. Forse non era valsa la pena. Avevo a che fare con una band di vegetariani, che se ne andò il giorno dopo. Così dovetti rimpiazzare l'intero gruppo. L'indomani i nuovi musicisti erano tutti nel fondo del nostro pullman a imparare le canzoni. Il famoso Croydon Incident, del quale probabilmente a Croydon parlano ancora, è legato a una delle canzoni contenute nell'album Animal Justice, dal titolo Chicken Shit, cioè escremento di gallina, e rappresenta il simbolo di un periodo folle della carriera di John Cale. È un periodo in cui la sua vita, anche privata, è allo sbando. Si è separato anche dalla seconda moglie, Cynthia Wells, che peraltro era una delle GTO, il gruppo musicale ideato da Frank Zappa, composto tutto da groupies. Ne faceva parte anche Pamela Desbars, ne abbiamo parlato qualche mese fa. Insomma, è una separazione dalla moglie che contribuisce a aggravare la sua dipendenza dalle sostanze stupefacenti, anche dalle più disparate. Poi conosce e sposa quella che è la sua attuale compagna, Rizé Irushami, e le cose si aggiustano un po'. Nell'82 realizza quello che è considerato il capolavoro della sua produzione matura, Music for a New Society, dove arriva a concepire, proprio come è sintetizzato nel titolo, una nuova musica per una nuova società. E verso la fine degli anni 90, John Cale è impegnato in due progetti molto ambiziosi. Il primo è Words for the Dying, una vera e propria opera dove è evidente lo zampino del suo amico Brian Eno, che ha prodotto anche il disco. Il secondo progetto è il mitico Songs for Drella, un album bellissimo, e l'abbiamo suonato e ne abbiamo parlato a lungo, perché intanto ha un valore intrinseco di per sé. Poi è fatto da 15 canzoni composte da Cale insieme a Lou Reed dopo la morte di Andy Warhol. Infatti Songs for Drella, canzoni per Drella, che era il soprannome di Andy Warhol. È un riavvicinamento clamoroso tra i due, e c'è un video molto bello di loro due che cantano senza praticamente guardarsi in faccia, cioè si capisce che si amano e si odiano in una maniera di un'intensità straordinaria. E poi ci sarà anche, forse grazie proprio a questo riavvicinamento, una reunion, anche se solo momentanea, dei Velvet Underground nel 1993. Non ci sono soste per John Cale. Poi c'è l'album Wrong Way Up, scritto a quattro mani con Brian Eno, e poi colonne sonore per vari film, come Qualcosa di travolgente con Melanie Griffith, Basquiat, American Psycho, e poi partecipa al tributo a Leonard Cohen con una bellissima versione di Alleluia, ripresa poi anche da Jeff Buckley, e poi realizza un album live, Fragment of a Rainy Season, che è un po' la summa della sua carriera, una testimonianza della sua arte come autore, come cantante, Forse il disco dal quale si può partire se non lo si conosce e per accostarsi in maniera completa a lui. Insomma, se proprio non sapete nulla di John Cale, vi consiglio questo, Fragments of a Rainy Season. Oggi John Cale ha più di 70 anni, ma non ci pensa a fermarsi, continua a lavorare, realizza altri album, Hobo Sapiens, Black Acetate, Shifty Adventure in Nookie Wood, uscito nel 2012. Ascoltate cosa risponde a un giornalista che gli chiede come mai non smetta di lavorare. Normally, if I interview a musician your age... Normalmente i musicisti della sua esperienza e con la sua carriera hanno un repertorio composto magari 30 anni prima. Lei è l'esatta antitesi di quel tipo di musicisti. Lei continua a fare sempre cose nuove. Come mai? Si annoia? Assolutamente sì. Ho bisogno di essere sempre in movimento. Ma lei non ha bisogno di lavorare? Sì che ne ho bisogno. Per la mia salute mentale. Ed è una maniera per rimanere affascinante agli occhi dei miei vicini. How to remain charming to your neighbors. Eh sì, ci sono persone che non si possono fermare, soprattutto se sono creative, curiose, se hanno così tante cose da dire come John Cale. Insomma, in un mondo musicale, quello di oggi, che non ha quasi più nulla da dire, Dio benedica gente come John Cale. Se volete mandare dei vostri commenti, segnalare altre vite su cui volete che noi ci punti il nostro microfono, scrivete al falcoelgabbiano@radio24.it oppure al sito www.radio24.it, oppure venite a cercarmi nei miei e nei nostri social. E poi ricordate che sul podcast potete sempre riascoltare le puntate che vi siete persi o che vi sono piaciute particolarmente. Ciao, a domani.